Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento! Non temete, ci sono, benvenuti a tutti all'interno del Mangia Show, dove si ascolta principalmente musica Creative Commons. Io sono il Mangia, oppure potete anche chiamarmi con il mio vero nome Andrea, Mangia è diminutivo del mio cognome Mangerotti, solitamente gli amici mi chiamano così. Allora, per essere, diciamo così, il più possibile amichevole con voi, ho deciso di utilizzare lo pseudonimo che spesso i miei cari amici mi danno. Dicevo, benvenuti a tutti all'interno del Mangia Show. Riepiloghiamo ancora una volta che cos'è questa trasmissione. È un programma che vi permette di ascoltare musica Creative Commons, cioè musica non protetta dalla cosiddetta CI, quindi è musica libera, dove avete la possibilità di scoprire magari dei talenti che magari altrove non riuscite ad ascoltare. In apertura vorrei mandare un saluto a Ruggero, che gestisce praticamente alcuni siti, tra cui vi segnalo circuitoradionetweb.tk. Ruggero è stato così gentile di diffondere attraverso una delle sue radio, per l'esattezza Radio Stella, che trovate l'indirizzo radiostella.tk, è stato così gentile di diffondere questa trasmissione in simbiosi, diciamo così, con Radio Oltre Po. In apertura volevo proprio segnalarvi il sito di Ruggero, circuitoradionetweb.tk, dove avete la possibilità di muovervi attraverso tre radio che diffondono alcuni generi musicali, anzi sono quattro le radio, scusate. C'è anche, insomma, Radio Oltre Po, l'ultimo arrivato, lui è stato così gentile di aggiungere anche il logo della nostra radio. Comunque trovate alcune radio, tra cui vi segnalo radiostella.tk, Radio Stella Classics, che ne trovate all'indirizzo www.radiostellaclassics.tk, poi c'è radiostellaitalia.tk e radiostelladance.tk. Come avete potuto sentire dalla denominazione delle radio, ogni radio è contraddistinta da un genere musicale. Radio Stella Classics trasmette musica classica, ovviamente Creative Commons. Radio Stella Italia trasmette musica italiana sempre su licenza Creative Commons. Radio Stella Dance trasmette musica dance, sempre protetta da licenza Creative Commons. E poi c'è radiostella.tk, che Ruggero ha voluto diffondere questa trasmissione anche attraverso le magiche onde di questa radio, un tempo si diceva così, attraverso le magiche frequenze di Radio Stella. Siamo anche in diretta su radiooltrepo.com, quindi, come si suol dire, l'unità fa la forza, ed è bello questo progetto che racchiude in sé lo spirito libero delle licenze Creative Commons e la passione, suppongo, di Ruggero, e anche la mia passione di diffondere musica in tutta libertà, senza dover essere soggetti ai cosiddetti vincoli della CI e dell'altra società che mi sfugge il nome, che tutela i diritti d'autore e che, a mio avviso, insomma, sono delle vere e proprie banche che tutelano solo chi vogliono loro, cioè i media nazionali, le radio importanti, le radio locali, le radio piccoline vengono come sempre lasciate allo sbaraglio. E come ben sapete, ogni anno chiude sempre una radio locale. Peccato, vabbè, è un discorso un po' contorto. Ancora un ringraziamento a Ruggero e al progetto circuitoradionetweb.tk per aver diffuso anche il nostro programma. Bene, detto questo, direi di partire immediatamente con la prima canzone. Vi facciamo sentire un brano molto molto dance, quindi potete sentire il Mangia Show su Radio Oltre Po, e mi segnala anche Ruggero su radiostella.tk. Quindi un saluto anche agli ascoltatori di Radio Stella che stanno ascoltando la nostra trasmissione. Primo pezzo molto molto di musica house che ci ricorda il passato, Felix. questo è il Mangia Show. Buon divertimento. Delle tante notizie principali che in questi giorni sta facendola da padrone sui principali media nazionali e non solo è la situazione libica, dove i ribelli che si oppongono a Gheddafi si stanno piano piano avvicinando a Tripoli. Ora sono a 40 km ad ovest di Tripoli. C'è un articolo dell'ANSA ripreso anche da un quotidiano online che si chiama Blitz e dice: i ribelli libici sono a un passo dalla capitale, sono pronti a prendersela per segnare definitivamente la cacciata del Mohammed Gheddafi, sono pronti alla battaglia finale, sono in gran parte giovani. A 45 km a ovest di Tripoli, ora assediano una città che si trova proprio vicino a Tripoli. I segni della battaglia si vedono ovunque, raccontano gli inviati. I muri degli edifici sono crivellati da colpi, alcuni sono anche anneriti dal fuoco delle granate. A terra un tappeto di vetri, bossoli di piccolo e grosso calibro e pezzi di cemento. Il figlio del colonnello Gheddafi è stato di parola, aveva promesso ampia libertà di manovra ai giornalisti stranieri e l'ha mantenuta. Per arrivare a Zawiya bisogna attraversare ben 6 checkpoint dell'esercito che ha sigillato tutte le vie d'accesso a Tripoli con i carri armati. I militari controllano l'auto in fila, aprono i bagagli alla ricerca di armi dirette ai ribelli, ma controllano anche chi funge dalla capitale sotto assedio. La città è divisa tra ribelli e sostenitori di Gheddafi, ma il centro è in mano ai rivoltosi. Un collega indossa un giubbotto antiproiettile con la scritta Press ben visibile sul davanti. L'ingresso della città a Zawiya appare spettrale, deserta, con resti di barricate improvvisate per le strade. Poi, insomma, questo articolo era ripreso dall'Ansa Online, scritto da Marco Brancaccia. La situazione non è delle più rose, purtroppo il comandante Gheddafi sembra non voler abbandonare il suo ruolo, che da moltissimi anni è quello di capo di Stato. Alcuni lo chiamano dittatore, vabbè, ogni paese ha i suoi problemucci, guardiamoci anche in casa nostra, però qua la situazione libica è veramente veramente drammatica, speriamo si possa risolvere nei prossimi giorni, magari pacificamente, con insomma un cambio di guardia al potere senza spargimento di sangue. Forse è un sogno del sottoscritto, speriamo si possa realizzare anche lì. Ora andiamo avanti con la musica, abbiamo un brano dell'artista finlandese, lui si chiama Doc, ci propone una canzone dal titolo alquanto particolare, è intitolata per l'appunto Bruno, a cantare l'artista finlandese Doc. Che vedere con il film di Sacha Baron Cohen dal titolo Bruno, questo eccentrico film di produzione americana, è semplicemente un brano dell'artista finlandese Doc che ci fatto riassaporare insomma le sue sperimentazioni musicali, direi molto molto futuriste. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show, bentrovati a tutti, benvenuti nuovi amici che magari si sono appena sintonizzati su Radio Stella oppure Radio Oltrepò oppure in qualche altra radio che diffondono questa trasmissione. Vi ricordo tutti i nostri contatti: se volete interagire con il sottoscritto potete visitare il mio blog www.radiooltrepo.com, lì trovate insomma i miei post, potete anche scrivermi sempre se vi va. Poi siamo anche online nelle due radio, radiooltrepo.com e anche radiostella.tk, quindi potete ascoltarci anche lì. Un ringraziamento ancora a Ruggero che ci consente di essere online anche su Radio Stella. Ora parliamo velocemente invece del caso insomma che da circa 2-3 mesi tiene banco la cronaca italiana, diciamo così la cronaca politica italiana, cioè il caso Berlusconi insomma, e c'è una smentita di Nicole Minetti che smentisce se stessa davanti ai PM milanesi. Infatti in precedenza aveva riferito ai PM di non aver mai avuto rapporti sessuali col premier, ora invece si corregge, dice di non aver avuto rapporti sessuali all'interno delle feste, delle cosiddette feste di Arcore, ma di aver avuto una relazione con il premier e di conseguenza anche alcuni rapporti sessuali. Silvio, se la fa sempre bene Silvio, insomma, diciamo così. Anche se cercate su internet c'è stato un video decisamente simpatico, molto molto goliardico, fatto dall'attore hard Rocco Siffredi, dove cerca di dare consigli al premier insomma su come comportarsi nel suo stile di vita con questa ragazza. Insomma, Rocco Siffredi si cimenta in un video, in un monologo, dove invita Silvio Berlusconi a contattarlo, che espressamente dice: Silvio, ti posso aiutare, insomma, perché anch'io avevo questo problema insomma di essere attratto da parecchie donne. Insomma, Rocco Siffredi lancia questa ancora di salvataggio per il premier. Vabbè, simpatico, cercatelo su YouTube, lo trovate nel canale di Rocco Siffredi e fa molto molto ridere insomma, perché Rocco Siffredi dice: stimo questo uomo che fa queste feste con un sacco di donne e per lo più riesce anche a dare alle stesse degli incarichi politici di primo piano. Vabbè, mi ero un attimo impappinato, scusate, ma questa sera sono molto emozionato, che si ascolterà anche nel pomeriggio, altrettanto in replica, perché siamo anche in onda su Radio Stella. Buon divertimento! all'ascolto del Mangia Show. Per collaborare con il programma www.andreamangiarotti.com. Il Mangia Show. In precedenza abbiamo ascoltato BS con Imagination, ora siamo tornati in onda con Offenbach Project. Questo era Javier, un brano dance molto molto interessante. Ora parliamo invece di cinema. Vi ricordo i film in programmazione nelle vostre sale cinematografiche preferite per queste settimane. Trovate per esempio il nuovo film di Carlo Verdone, Manuale d'amore 3. Poi c'è un film, presumo d'orrore, Shatter, Identità paranormali, vietato minore di 14, Senza identità, Amori e altri rimedi, Il cigno nero, Il Grint, sono il numero 4, I fantastici viaggi di Gulliver in 3D, Femmine contro maschi, poi abbiamo Immaturi. Vi ricordo che a breve uscirà anche la rivisitazione in chiave 2011 del capolavoro di Mario Monicelli, Amici miei, però posso supporre che i registi e il cast artistico, per non rovinare il bel film originale, abbiano fatto non proprio un remake, insomma, un qualcosa di ambientato nel passato, tipo Amici miei, le origini, se non erro. Questo dovrebbe essere il titolo proprio del film. Insomma, Amici miei, le origini, se non erro. Andatelo a vedere magari nei vostri cinema preferiti. Ora invece una grande canzone tra le mie preferite del portale yamendo.com. State sempre ascoltando il Mangia Show. Ora e ora è arrivato il momento, insomma, di leggere un articolo estrapolato dal Fatto Quotidiano, insomma, questi giornalisti burloni che si divertono a scrivere articoli molto molto divertenti, insomma, sui principali fatti politici italiani. Oltre a Silvio B, come lo chiamano loro, ho letto un articolo del Fatto che parla questa volta di Renzo Bossi, soprannominato il Trota, insomma, che tutti voi conoscete. Pensate un po' alle feste di Villa San Martino, ospite del Premier, e delle sue cene eleganti ci sarebbe anche la fidanzata di Renzo Bossi, Barbara Fagioli. E per l'appunto il Fatto dice: è il 26 settembre 2010, mancano pochi minuti alle 18, quando una delle predilette del Premier, che come Nicole Minetti sognava una carriera politica, chiama il direttore del TG4. Si tratta di una telefonata di cortesia. La Fagioli si trova in palestra con la Nichi, si informa sullo stato di salute di Emilio Fede, l'altro la rassicura: benino, grazie, ieri avevo una sberla, adesso che non finiva più. La Fagioli però insiste: insomma, ti sei riposato? E allora Fede svela, insomma, si lascia andare e dice qualcosina in più sul suo stato di salute. Benino, benino, dice, grazie, ieri avevo una sberla addosso, eccetera eccetera. E poi gli chiede: e lui come sta? Fede risponde: lui aveva un sacco di problemucci. Poi i due iniziano a parlare delle serate di Arcole, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, queste vere o presunte feste che c'erano ad Arcole ci regalano tanti siparietti comici, direi una satira politica molto graffiante, e a mio parere ci fa fare anche, insomma, due risate, visto l'andazzo della situazione politica attuale, non solo italiana ma anche internazionale. Ora andiamo avanti con la musica, questo è sempre il Mangia Show. L'angolo del relax. Su Radio Tre Post state ascoltando l'angolo del relax, insomma, un po' di musica per riflettere e meditare. Ora invece accogliamo un grande artista all'interno del nostro programma, sto parlando di Dark Light al secolo Graziano Manca, un artista piacentino, diciamo così, decisamente talentuoso, molto bravo, produce dei brani di musica electro house, li trovate ovviamente su yamendo.com, basta cercare Dark Light, ce ne sono due, però voi lo scrivete in piccolo, con la D piccola, Dark Light, e trovate due album. Il secondo è titolato Ombre sulle stelle, l'abbiamo proposto un sacco di volte su Radio Oltrepò, essendo un amico mi piace farlo ascoltare anche agli amici e alle amiche di Radio Stella che magari ci stanno ascoltando quest'oggi. Vi ricordo, potete scaricare l'intero album gratuitamente, legalmente, su www.yamendo.com e anche sulle reti di scambio di file tipo Emule, Torrent, insomma trovate le sue opere. Intanto vi regalo la traccia che diciamo così è anche la title track del suo album, questa è Ombra sulle stelle, a cantare per voi, meglio dire a suonare per voi, l'artista Dark Light, grande sound di musica dance elettronica per tutti voi. Buon ascolto. Thank you. Darklight con Ombre sulle stelle. Ora leggiamo invece un'ansa dell'ultima ora: Libia, USA no intervento navi militari. Ginevra, in Libia non ci sarà un intervento militare che coinvolga navi statunitensi. Lo ha detto il segretario di Stato USA Hillary Clinton a Ginevra, precisando che saranno inviate due squadre umanitarie ai confini della Libia con Tunisia ed Egitto. Intanto uno dei portavoce della difesa americana, David Lampan, ha annunciato che gli USA stanno riposizionando le loro forze armate, navali ed aeree attorno alla Libia. Quindi sembra che non ci voglia essere un intervento da parte dell'ONU e anche da parte degli stati, insomma, europei e anche americani. Si vuole, diciamo così, una risoluzione magari proprio interna libica. Speriamo, insomma, che tutto si risolva nelle prossime ore e, perché no, magari anche nelle prossime settimane in maniera pacifica. Questo è il mio auspicio. Comunque vi terrò informati. Anche adesso, appena acceso, sono sintonizzato dal satellite sulla TV libica e essendo, insomma, una TV filo governativa, quindi pro Gheddafi, vengono trasmesse proprio in questo istante, mentre vi sto parlando, dei talk show, insomma, che inneggiano a Gheddafi, mostrano anche la situazione di Tripoli. Probabilmente sono documenti d'archivio che ritraggono la città libica, capitale libica, piena di generi alimentari nei negozi, dove la gente passeggia per le strade, e i notiziari, me lo sono guardato anche ieri, ripropongono sempre una manifestazione di alcuni esponenti, insomma, pro Gheddafi, che sventrano bandiere eccetera eccetera, però sullo sfondo si vedono veramente poche persone, saranno 100-200 persone. Questo video sembra girato in una strada secondaria e, insomma, purtroppo questa è la situazione magari dei paesi che sono governati da vari dittatori. Si cerca sempre di nascondere la cruda e vera verità alla gente, anche se, insomma, la realtà non è sicuramente quella che sta trasmettendo la TV libica, ma bensì è un'altra. Va bene, speriamo per una risoluzione di pace nelle prossime ore e, perché no, anche nelle prossime settimane. Ora vi regalo un jingle e poi torneremo ancora in diretta con una gran bella canzone dell'artista finlandese Doc. Un jingle e poi torna la grande musica di Doc. State lì. Il Mangia Show, solo il meglio della musica Creative Commons, presenta Il Mangia e vi porta per mano nella scoperta della bella musica. Jack Earl Quintet, il disco aperitivo. Thank you. premetto che è bello tutto l'album di Jack Earl Quinted, ma questa traccia Light Within è assai interessante, veramente un'espressione di musica jazz di alti livelli, non solo musicali ma anche proprio sonori. Sentite che bel viaggio, insomma, che vi accompagna nella vostra giornata oppure nella nostra grande nottata, a seconda di quando ci ascoltate. Vi ricordo tutte le nostre coordinate, insomma, per entrare in connessione con il sottoscritto potete visitare il mio blog www.andreamangiarotti.com, lì trovate, insomma, i miei post, i podcast del programma, tante sorprese, ma anche un indirizzo mail per entrare in connessione con me se vi va. Potete scrivermi, insomma, e discutere di questa trasmissione, vi piace, non vi piace, eccetera eccetera. In conclusione, perché purtroppo siamo giunti al termine del Mangia Show, vorrei leggere un articolo molto carino, diciamo così, carino per modo di dire, reperito dalla Repubblica Mobile. Sfida Facebook con un virus e Zuckerberg lo assume proprio su Facebook. La storia di Chris Putnam, 19enne annoiato degli studi dell'Università della Georgia, creatore di un worm in grado di infastidire il social network di Mark Zuckerberg in meno di 24 ore, è molto la mente di tutti gli utenti. È stato contattato dalla società, pensate un po', ed è stato assunto proprio dal colosso di Palo Alto. Questa, oserei dire, è l'America, queste cose accadono veramente solo in America. Avevo letto anche un articolo di un barbone che è stato preso dalla strada e messo alla conduzione di un programma radiofonico. Avevo anche visto, insomma, qualcosa sulla CNN di questo Crochard che venne intervistato da un giornalista di una radio americana e lui si divertiva proprio a parlare da disc jockey, facendo anche il jingle della radio. Dopo poche settimane venne assunto proprio da questa stazione. Non per dire, insomma, che l'Italia queste cose non possono venire, però gli Stati Uniti mi sembra una nazione certamente con i suoi problemi, con magari alcune cose non proprio democratiche come la pena di morte, però in certi settori, a mio avviso, forse è più facile sfondare che in Italia. Un discorso un po' contorto, era l'ultima canzone del Mangia Show, ora mettiamo la sigla e parleremo un secondino, insomma, della nostra trasmissione e poi, a Dio piacendo, ci ritroveremo prossimamente. Mandiamo la sigla, vai! Avete ascoltato il Mangia Show. Le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Ed eccoci giunti al termine della nostra trasmissione. Ringrazio ancora tutti per aver ascoltato il Mangia Show. Un ringraziamento anche a Ruggero dello staff di Circuito Radio Net Web Radio. L'indirizzo corretto è circuitoradionetweb.tk. All'interno di questo portale trovate radiostella.tk, radiostellaclassics.tk, radiostellaitalia.tk, radiostelladance.tk e di recente anche la nostra emittente radiooltrepo.com. Benissimo, siamo giunti al termine, mi auguro che abbiate apprezzato la programmazione musicale mista con le notizie più o meno serie o meno serie che abbiamo reperito direttamente dal web. Io sono il Mangia, vi rinnovo l'appuntamento alle nostre prossime puntate, mi raccomando, rimanete sempre in sintonia su questa radio. Prima di salutarvi vi ricordo il mio blog dove potete interagire con me, www.andreamangiarotti.com, trovate anche la mail per entrare in contatto diretto con il sottoscritto. Grazie ancora per l'attenzione, noi ci ritroviamo alla prossima, bye bye, mi raccomando, sempre stessa radio e stessa magica frequenza, come si diceva un tempo. Ciao dal Mangia, ciao.